Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. A belli de casa, subito dopo le 7, più precisamente alle 7:02 su www.rantemeradio.it torna Buongiorno un cazzo, come tutti i giovedì mattina, oramai diventa una cosa consueta e si sostituisce a Disordinati Informati, che si sposta dal giovedì ovviamente al martedì, ma questo oramai insomma penso che lo avete capito, lo avrete appreso, anche se dobbiamo ancora cambiare tutti gli spot che continuano ad andare dicendo cose sbagliate. Infatti penso che nella giornata di oggi la maggior parte di spot che vanno in circolazione verranno temporaneamente sospesi in attesa di essere risostituiti. Come va? È giovedì, è bello perché Buongiorno un cazzo in realtà è l'anticamera dell'inizio del fine settimana, anche se il venerdì è, in realtà sarebbe il fine settimana lungo, però dai, in fondo fine settimana è... Passiamo un po' alla base, che sennò poi mi dicono che è molesta, giustamente, anche perché mi entra nelle orecchie e non mi fa ragionare. Diciamo che in questa puntata, attenzione allo starnuto, starnuto che poi ovviamente quando devi starnuti poi non viene più, non si sa perché, qua. Eccolo, è andato. Dicevo che in questa puntata non ho avuto il tempo di prepararmi delle cose, poi dopo vi spiego anche il perché, ma bene o male più o meno lo sapete, perché il fatto di essere andati a fare questo weekend di riprese e poi sbobbinamenti e poi inizio editing e via dicendo, ma veramente totalmente portato via completamente il tempo e non mi sono informato, non ho letto niente, quindi in realtà non è che non ci sarebbero le cose da dire, però insomma è sempre meglio così, mi suggeriscono, mi dicono che è sempre meglio parlare di cose di cui si è ovviamente letto insomma un pochino da qualche parte in giro, anche perché in realtà la prossima settimana vorrei parlare di questa cosa del clima, ma aspetto insomma di leggere quello che è il documento finale, però una cosa comunque la dico uguale, due o tre cose poi insomma in realtà da dire a livello di racconto insomma ci stanno anche, e va bene, vi lascio con quello che è il brano di questa mattina, una scelta un po' strana, forse anche un po' a casaccio, vediamo insomma se vi piace come scelta. Praticamente Antonella Ruggero pare che abbia fatto recentemente, non so quanto recentemente, e senza che io ne sia stato informato, anche perché insomma l'avrei sconsigliata tutto sommato, di fare questo disco che si chiama Registrazioni Moderne, che in realtà pare che hanno preso le vecchie tracce, quindi originali dei vari brani, quindi del cantato in particolare, e le abbiano buttate sopra un background di ritmo un po' strano. In realtà fa veramente un po' strano sentire sta canzone, Vacanze Romane, chiaramente, in questa maniera qua, anche se devo dire che piano piano se la riascolti poi queste sonorità strane che sembrano stridere anche con il tipo di brano non sono neanche tanto male. Mentre io saluto chiaramente Walter, che mi dice che è giovedì, e infatti lo dicevamo prima. Mi sono sempre chiesto come mai Mattia Bazar cammino più cantanti che mutande. Cosa c'è dietro? Non ce lo dicono, chiaramente non ce lo dicono. Mentre Francesco invece giustamente dice: io non devo accampare scuse tipo che è la musica troppo alta che mi impedisce di ragionare. Giustamente sarebbe un po' troppo facile. Salutiamo anche Gianluca Sansò che ci è venuto a trovare. A proposito di Vacanze Romane, mi capita, noi la mattina quando facciamo colazione con Alexa, gli diciamo: Alexa, inizia la giornata, lei ci dice gli appuntamenti, il tempo, che da fa, che vo, perché ti sei svegliato, e poi inizia insomma una serie di notiziari che praticamente ho preimpostato, tra i quali c'è una sorta di podcast che parla di Roma, e lo stesso podcast che prima Roma faceva schifo, amministrata di merda ogni giorno, morte e devastazione, ha trasformato completamente quello che è un po' il suo approccio sulle notizie informative relative al comune di Roma, no? Insomma, tutti ci eravamo fatti un po' un'idea del sindaco di Roma, del nuovo sindaco di Roma, che in questo momento mi sfugge il nome perché sono incoglionito, come una sorta di Biden tutto nostro, cioè nel senso un vecchietto buttato lì che si addormenta, scorreggia e fa cose. E, Gualtieri, giusto? Gualtieri mi pare che è il sindaco di Roma. Ma adesso mi. Cioè, insomma, devi sempre comprendere che io ieri sera ho fatto live, adesso faccio live, stasera faccio live, sarà un bel periodo. Poi sabato e domenica sparisco completamente dalla faccia della terra, naturalmente. E insomma, questa narrazione è un po' cambiata. Cioè, Gualtieri crea la commissione dibattito con Gualtieri, istituisce per migliorare la situazione di Gualtieri, va questo, quest'altro. Insomma, devo dire la verità, che c'è un po' una doppia sensazione. Una, che veramente non vedevamo l'ora delle vasse del cazzo alla Virginia Raggi con tutti i 5 Stelle annessi e connessi. E dall'altra, forse che sto Gualtieri poi alla fine magari zitto zitto, buono buono, un po' Biden, un po' si addormenta, un po' fa le scorregge, però poi magari comunque delle idee dietro ce l'ha, magari. Cioè, nel senso, io dico, oh, senti, io parto subito e fa vedere che così almeno pam pam mi sparo tutte le cartucce, poi dopo c'ho il tempo di addormentarmi, insomma, fra altri 6 mesi, insomma, almeno adesso diamo un po' un'immagine. E, però la sensazione, insomma, sembra che ci sia un movimento all'interno del Comune di Roma, c'è grande attività dal punto di vista delle proposte anche politiche, amministrative, gestionali, insomma. E questo devo dire che, insomma, tutto sommato, se così fosse, perché insomma qui stiamo parlando di narrazione, noi non siamo abbastanza vicini a Roma, cioè siamo abbastanza vicini a Roma da percepirne l'odore morente, dall'altra parte non siamo abbastanza vicini per vedere se hanno piantato dei fiori, insomma. Questa è un po' la sensazione che ci abbiamo, e quindi insomma seguiremo nelle prossime settimane. Voglio seguire un po' la questione. Tra l'altro, se ci riesco, una volta vorrei portare anche una nostra amica avvocato che si è candidata al consiglio comunale e ha preso, pensate voi, ha preso ben 250 voti, incredibile, una cosa, insomma, in una città gigante come Roma, dove un candidato che non esiste, fondamentalmente non esiste, lei ha preso più del candidato sindaco dei comunisti rivoluzionari selvaggi. Ricordate che avevamo fatto quella lista di tutti i sindaci candidati a Roma. E insomma, vabbè, Roma è una cosa sulla quale torneremo a parlare, perché poi, insomma, un po' di curiosità, no? Magari ci diamo un po' di tempo per far passare, che ne so, un 6 mesi, e poi iniziare a vedere se veramente è successo qualcosa, perché sembra ci sia un clima diverso anche dal punto di vista dell'opposizione. Vabbè, che considerando che metà dell'opposizione è parzialmente anche quasi alleata in altre situazioni, insomma, voglio dire, alla fine potrebbe anche starci, no? Che non sia poi una cosa così drammatica, ecco, diciamo così, come condizione, come situazione. E vediamo, perché sono veramente molto curioso. Mentre vi annuncio che Runtime sta lavorando a una serie di documentari, dei quali non posso fare spoiler. Però sono una serie di documentari, audio documentari, chiaramente, che noi quello facciamo di lavoro. Molto interessanti, che probabilmente ci porteranno anche ad avere molto successo dal punto di vista della produzione di documentari naturalistici, scusate. E quindi, insomma, tenetevi pronti, perché saranno veramente delle cose assolutamente da non perdere per nessuna, e ripeto, nessuna ragione al mondo. E questo ci tengo, insomma, a dirlo, perché chiaramente, cioè, come fai, insomma, sta lì a dire, oh, questi hanno fatto i documentari e noi facciamo niente, niente, non ascoltiamo, non dimo, non si può. Sei su Runtime Radio, la talk radio geek. Tonino, no te pio, o te pio, aborito de emerine. Oh, regà, io il lunedì sera sulla radio non so che cazzo ascoltare. Cioè, sto a casa, non so che. Voi che fareste? Guarderei la televisione. No, la radio è più bella, la radio è. Tu che dici? Ma guarda, io ascolterei qualcosa, ma mi tocca falla lunedì sera. Che ti tocca falla? A cacca, che devi fare? Mi tocca fare OGM! OGM, allora ascolto quello, allora. E dai, no? Quando? Tutti i lunedì, alle 21, in diretta. Ma quali lunedì? tutti i lunedì pari dei lunedì dispari. Quelli là primi i lunedì a 2 a 2 fino a che diventano dispari. Sono tutti i lunedì della settimana. Esatto, questa è la citazione storica. Alle 21 su dove? Su runtimeradio.it. E come si fa? E non lo so, ma me lo faccio spiegare da nonno. Quindi runtimeradio.it, OGM tutti i lunedì sera alle 21, giusto? Vi piacerebbe sapere che vuol dire OGM, ma ve lo sveliamo solo in puntata. Esatto, perché dobbiamo ancora capire. Esatto. Quindi. Ma runtime radio o runtime radio? Runtime radio! Emily and the Blackouts, questi qua sono gagliardi. La canzone si chiama Hope e vi piace tantissimo, immagino, perché state lì a dire: oh, ma quando è che la lasci sta canzone? Falla sentire un altro po'. Ma no, perché come tutte le canzoni di Creative Commons, come dicono tanti, grazie a Dio, durano poco, e questa insomma è la cosa che ci tiene sempre un po', come posso dire, orgogliosi del fatto di metterle, perché tra l'altro mi sa che e non mi sa neanche tanto male che non ho messo il tag della trasmissione. Lo faccio subito, perché insomma magari uno arriva su Runtime Radio e dice: ma cos'è lei che sto ascoltando? Cos'è lei? Comunque, dicevo del clima. Del clima ci torniamo a parlare, del clima, perché è una cosa importante. Aspettiamo di leggere un po' il documento, però volevo anche leggere due cose che avete scritto sulla chat, perché giustamente Francesco mi ricorda che il sindaco di Roma è Michetti, e quindi ho sbagliato, cioè nel senso, alla fine ha detto un'altra cosa, e Walter mi ricorda che è giovane, mica Biden. Sì, ma come immagine, cioè ti dà questa sensazione di uno che sta lì purino, mettilo seduto, se no si stanca, insomma, una cosa così, cioè uno che, cioè Biden secondo me alla fine stava lì perché non c'avevano, gli americani non c'erano il coraggio di candidare Sanders, però allo stesso tempo serviva a vincere contro Trump, quindi alla fine questa è un po' la verità. E la stessa cosa secondo me è Gualtieri. C'è parecchio casino in giunta, poi i 5 Stelle stanno all'apogeo della del rosicamento, che se non conoscete l'italiano andate sulla Treccani e cercate. Rosicamento significa rodere con i denti le ossa del gomito, ed è un gesto che è rappresentativo di disagio e malcontento, diciamo così. E già cominciano a dire: la Raggi se n'è andata, la monnezza sta ancora là, quindi non è la colpa della Raggi. Vabbè, ma tutto a posto, perché le cose spariscono così. Cioè, devo dire, lei ci ha messo molto tempo, su questo bisogna dire, ha rispettato i tempi della politica, ci ha messo molto tempo a riempire Roma di monnezza, e non è che adesso un giorno all'altro tu risolvi il problema, ma vedrete, sono abbastanza ottimista, anche perché l'altro giorno, andando a prendere Sant'Agostino alla stazione con Sbano e Gualdi, alla stazione di Burtina, io di monnezza non ne ho vista tanta, fino a che non ho girato, non abbiamo girato un angolo dietro la stazione, c'era un tipo, cioè avete presente quando zitto butta tutto sotto al letto, no? È un po' così, capito? Che c'è, oh, ma è pulita sta stanza, io sotto al letto stanno tutte la merda, no? Cioè nel senso, cose del genere. Comunque torniamo al clima e volevo fare una piccola riflessione molto banale, molto infantile da un certo punto di vista, però che secondo me ci sta, perché pare, io appunto devo leggere un po' il documento finale, quindi adesso insomma, poi pare che insomma la Cina non voleva, poi alla fine pare che invece in extremis c'è stata questa firma, questa rettifica della Cina, che pare insomma che abbia molta importanza, perché c'ha un valore politico non indifferente, sebbene sia il documento più blandamente politico che sia mai stato fatto, e pare che durante la giornata addirittura sulla bozza di questo documento non si faceva neanche menzione dei carburanti fossili come problema, insomma, della scusate, della insomma della crisi climatica, no? Quindi cioè, alla fine, beh, tutto sommato, se ci pensate, è anche ovvio, no? Cioè nel senso, paesi che guadagnano miliardi di dollari, che hanno come industria strategica importante quella del carbone, del petrolio e via dicendo, non è che oggi dicono no, mettiamo tutto al bando, insomma, è che chiaramente per loro, ovviamente da un loro punto di vista, è una follia. Però io faccio un ragionamento un po' così, come ho detto, come un bambino che si sente seduto e penso, perché poi vado a prendere anche un po' tutta la narrativa, no, di fantascienza che ci siamo, magari ci siamo sbabbati nel tempo, no? Molte serie televisive fanno vedere praticamente un po' sull'onda di questi Elon Musk, di Zuckerberg, no? Tutta questa gente, di Bill Gates, tutta questa gente che poi di per loro economicamente ha la forza magari di un piccolo stato, no? Cioè, da un certo punto di vista. E se, adesso ce n'era uno in particolare che non mi ricordo come si chiama, era una merda, che praticamente c'era sto super magnate che aveva sviluppato sta tecnologia che avrebbe salvato il mondo dall'incidente con l'asteroide, insomma, cose del genere, no? Vabbè, una merda. Comunque, diciamo, io mi immagino queste persone iper ricche, quelle pochissime persone iper ricche nel mondo, che magari hanno costruito delle realtà, no? Diciamo così, degli habitat dove praticamente in caso di catastrofe naturali o robe del genere magari hanno creato queste arche dove dentro ci buttano della gente e poi diciamo in un modo o nell'altro diciamo si approntavano alla sopravvivenza, no? In realtà chiaramente sta parlando di stronzata, abbassiamo sempre questa maledetta musica che mi scordo di farlo. In realtà stavo parlando di stronzate naturalmente, però quello che mi fa riflettere è che a me se non concesso che possa esistere una cosa del genere e da un punto di vista tecnico economico ne hanno le risorse, il problema è comunque a che pro, cioè nel senso, pensare che io sono ricco e non voglio cambiare le mie esigenze, non voglio cambiare la mia impostazione perché questo è quello che mi rende ricco e mi rende potente, e sono talmente ricco e potente io comunque sopravviverò anche a questa cosa, è un po' una stronzata, no? Cioè pensiamoci, ma tu oggi vuoi essere talmente ricco e potente che un giorno preferisci magari vivere il resto della tua vita sottoterra, tu e i tuoi familiari, perché tanto sopravviveremo, ma siamo talmente ricchi che cazzo ce ne frega, no? Cioè, secondo me, qui viene un po' il punto della situazione. Un mio amico disse una volta, Michele Salvezza, insomma, che la vera anarchia non è il pensiero politico anarchico o gli anarchici o tutte quelle persone che si rifanno a un certo tipo di pensiero. La vera anarchia è il potere, cioè tutte quelle persone che hanno talmente tanti soldi che il soldo di per sé, cioè quindi il denaro, perde completamente di consistenza, diventa immateriale e diventa semplicemente potere. E quando raggiungi un livello di potere talmente alto, alla fine entri in un contesto anarchico dell'esistenza, perché per te le regole non valgono, ma valgono le tue regole, o valgono le non regole in senso assoluto, e questo ti innalza sopra il resto della popolazione in una maniera tale che alla fine tu pensi che questo tuo valore sia anche individuale, anche una sorta di elevazione, di crescita tua personale, che non soltanto sei potente e puoi distruggere o disfare le regole come ti pare, ma proprio come individuo sei superiore a tutto il resto. E quindi alla fine questa è la cosa che il resto del mondo si merita, cioè, ma alla fine che cazzo me ne frega a me di salvare l'umanità dalla crisi climatica? Io salvo me stesso e tutte le persone che ritengo meritevoli di essere salvate, no? Cioè, quando il potere diventa quasi una autodivinazione, no? La trascendenza si sale, insomma, ad un livello che diventa extraumano, no? Ultraumano. Quindi alla fine le persone che decidono la vita e la morte, che già è così poi fondamentalmente, perché ci sono dei contesti chiaramente nei quali sicuramente è così, e questo non lo possiamo assolutamente negare, no? Però poi alla fine, ecco, la cosa che veramente fa specie è un po' questo, cioè il fatto che queste persone arrivano al punto di pensare che quel contesto, quel problema, quel dramma, quella crisi non è una cosa che li tocca in qualche maniera, perché loro sono in grado di andare oltre e decidere altresì di scegliere chi supererà quel tipo di passaggio, quel tipo di problema, che poi ciclicamente, da un punto di vista geologico, da un punto di vista ambientale, insomma, una realtà come una cosa così a caso, un pianeta, possa avere poi delle trasformazioni a prescindere anche dal nostro intervento. Questo purtroppo fa parte della sua natura e del suo percorso esistenziale, tra virgolette, all'interno di quello che è ovviamente l'universo. Però è chiaro che certi interventi, certe trasformazioni e certe crisi anche climatiche all'interno di un pianeta hanno bisogno di forse migliaia di anni, no? E invece noi in 200 anni siamo riusciti, anzi in 100 anni siamo riusciti a creare un percorso di devastazione climatica tale da avere bisogno di magari centinaia di migliaia di anni per essere applicato in senso naturale, no? Quindi c'è questo parallelismo tra l'uomo, che di per sé comunque anche nel più basso degli uomini si guarda intorno e dice guarda che cosa abbiamo costruito, noi siamo veramente una creatura diversa dalle altre creature, siamo veramente un'entità illuminata, no? E dall'altra parte, tra le entità illuminate, quelli più potenti si sentono ancora più illuminati, no? Cioè ancora più potenti. E questa è una cosa, insomma, la quale alla fine un minimo ci ho sempre riflettuto sopra. Io non so, insomma, come la pensate voi, poi magari vengo a sentire, insomma, quello che dite in chat e vediamo quello che dite, appunto. Nothing is right, maybe it's just a bad luck. Started waiting for love. Ah, vedi, questi sono i Singleton. Singleton con Storms. Vi piace questa canzone? Lo so che non vi piace, però sti cazzi ve la beccate comunque, perché questo è quello che passa il convento, va bene? Quindi insomma passa il convento. Intanto andiamo avanti, vedo che ci sono delle importanti, importantissime, oserei dire, obiezioni a quello che ho detto io, che chiaramente, cioè, il ragionamento non vuole essere un ragionamento di ragione, è chiaramente una provocazione. A volte si fanno anche provocazioni, no? Perché giustamente Francesco critica me quando dice: ah, quando toccano il comunismo, ma a te quando toccano l'anarchia, è un po' la stessa cosa, no? In realtà, quando noi parliamo di un sistema di cose dove non esistono regole, perché la regola primaria è l'autogestione, l'autodeterminazione, quindi un presupposto anche culturale importante, è vero che comunque il liberismo, l'ultraliberismo, libertarismo, come, vabbè, i libertariani, insomma, per capirci, comunque in qualche maniera raggiungono un livello di coincidenza, no? Perché voi immaginate comunque di vivere in un contesto dove per te le regole non valgono, e le regole in quel caso non esistono. Quindi è tutto frutto della tua capacità di essere in grado di autoregolarti, no? Ma chiaramente quando hai tanto potere da arrivare a un punto in cui le regole non valgono, eccola là che chiaramente questa cosa fa uscire poi la parte più discutibile, no? Dell'uomo, in qualche maniera, e nello specifico eccoci qua dove ci troviamo praticamente a parlare di persone che sanno manipolare la realtà in una maniera tale, o sono convinti di poter fare, no? Che poi chiaramente tutto c'è un limite, no? Cioè tutto rientra poi in un contesto dove è difficile, insomma, superare dei limiti che sono dei limiti oggettivi. Il fatto che io sono in grado di scavalcare determinati presupposti, determinate regole, o che io sono comunque elevato rispetto al resto della massa, non significa che un giorno sarò in grado di correre veloce quanto la luce, insomma. Quindi sai, sono comunque dei limiti che sono dei limiti umani, e quando questi limiti verranno superati e le condizioni non saranno più accoglienti per nessuno, ci saranno veramente delle catastrofi ambientali superiori a quelle che stiamo vivendo adesso, che sono solo l'inizio di quello che probabilmente vivranno le prossime generazioni, quello secondo me non è la tua forza, non è il tuo potere, non è la tua mancanza di regole che ti salverà da questo. Ma c'è anche un pensiero forse anche più stringente, più legato al presente, al momento fisso nel tempo, che è quello di dire: ma alla fine che cazzo me ne frega, mica so io che muoio, al massimo non faccio figli e non mi lascerò la coscienza del fatto di aver fatto dei figli che magari vivranno in un mondo che sarà una merda, insomma. Cioè questo ci può stare come tipo di ragionamento, tutto sommato. Comunque vabbè, insomma, mi piace il fatto che si sia aperto un dibattito, ma magari dopo vengo anche un po' a vedere com'è la situazione. E in realtà poi c'erano altre cose, sì, c'è questa questione molto importante. Sentivo sbattere da qualcosa, forse è entrata mia moglie che è andata a cagare il cane. E c'è questa questione dell'aumento dei contagi, ma probabilmente ne parlerà Walter questa sera, e sicuramente ne parleranno ad OGM. Però c'è questa notizia che praticamente, ecco, questa notizia che ha condiviso Gualdi, sulla quale voglio anch'io dire un po' la mia, anche se molto velocemente, perché però la faccio un po' alla buongiorno un cazzo, diciamo così, perché c'è questa notizia che dice che praticamente il allora aspettate allora il monsignor Carlo Maria Viganò, che è praticamente l'ex nunzio in USA, che è praticamente il nemico giurato di Papa Francesco, cioè evidentemente essere di quelli ultra reazionari, no? Che va molto de moda, no? Dice che praticamente il Covid non esiste, cioè che stiamo vivendo in una psicopandemia, che appunto la malattia non esiste, e che addirittura si arriva anche all'eliminazione sistematica di persone per sostenere e praticamente alimentare questa cosa, questa farsa della pandemia, che è ovviamente una farsa di regime fondamentalmente, no? E ovviamente i media di regime sostengono assolutamente questo tipo di situazione. Tra l'altro questa cosa lo ha detto, cioè queste cose le ha dette a, mo vi dico anche, il martedì di La 7, che insomma alla fine io non ho mai visto, quindi non posso giudicare, però pare che praticamente insomma ci siano state delle reazioni tipo Bruno Vespa, che insomma da parlare Bruno Vespa, che ha detto che Dio lo perdoni, perché qui noi siamo arrivati a questo, cioè tanto c'è Dio che ci perdonerà tutti o ci condannerà tutti, ma prevalentemente ci perdonerà tutti perché Dio è buono. E invece Giannini ha detto che è un mascalzone. Io penso che tutte queste grandi cazzate, poi se esistesse veramente un media, una stampa di regime, questa gente non parlerebbe, non ci sarebbero tutti questi cancan, queste cagnare e queste trasmissioni su che poi alla fine sciacallano pure su sto pensiero, no? Che se voi andate tipo in area Mediaset, vabbè, ormai è praticamente inguardabile la televisione, cioè io penso che Rete 4 è al pari di Radio Radio, cioè noi ce la prendiamo con Radio Radio, ma Radio Radio fondamentalmente è un'istituzione dignitosa se consideriamo che è localizzata in un contesto e che fa parte esplicitamente di un'area politica, mentre Rete 4 invece alla fine è l'ennesima potenza della Radio Radio, no? E quindi poi alla fine insomma ti rendi conto che tutta sta gran cagnana, tutta sta gente che parla, alla fine istituzionalizza in qualche maniera, ancora una volta legittima tutte quelle persone che vanno in piazza a dire stronzate con comportamenti folli, perché sono prevalentemente matti, che sono gestiti ovviamente da persone che sanno quello che stanno facendo, cioè nel senso c'è dietro comunque un'architettura. E c'è poi ovviamente la manovalanza, gli agenti, cioè i soldati di prima linea che li buttano in mezzo a fare i deficienti e a creare comunque disordine, comunque scompiglio, no? Come quello che appunto succedeva a Trieste, come al fatto che comunque più c'è questa azione, più c'è una reazione anche delle istituzioni che adesso sono arrivate appunto a mettere delle limitazioni sulle manifestazioni, che ragazzi purtroppo... Questo è sbagliato, cioè fondamentalmente cioè questa continua e costante applicazione della democraticizzazione delle nostre azioni quotidiane è un abominio, soprattutto perché è mal giustificato, perché come diciamo sempre in OGM, Walter nelle orazioni della sera e via dicendo, se bisogna fare un atto di forza lo si fa sull'unica cosa che risolve il problema, perché se gli stati, le istituzioni hanno la convinzione che il vaccino funziona, che fa bene, che non ci sono problemi, allora a quel punto tu devi rendere obbligatorio il vaccino. Se tu vuoi salvare le persone, il fatto che questa cosa non si faccia rende tutto sempre più ambiguo, continuerà sempre a renderlo più ambiguo. Invece no, noi cominciamo a irrigidire i Green Pass, mettiamo il Green Pass che è una limitazione delle libertà personali, irrigidiamo il Green Pass perché fra poco c'è questa discussione del fatto che il Green Pass andrà soltanto a quelli che sono vaccinati, però siete liberi di vaccinarvi. È una contraddizione in termini che è ridicola, ma al di là della gente che sarà sempre contraria perché i scemi ci stanno, i Montesano ci saranno sempre, ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Il problema è che la cosa rende ancora più ambiguo tutto. Perché la politica non rende obbligatorio il vaccino? Allora il vaccino fa male. E questo è, ragazzi, è un assunto che per quanto ridicolo sia, alla fine è così, no? Cioè ci deve essere comunque qualcosa che non va in questa questione, che non è soltanto l'incapacità della politica di prendere una scelta impopolare, perché le scelte impopolari le stanno comunque prendendo. Perché che tu metti obbligatorio il vaccino o non lo metti obbligatorio, però rompi i coglioni sul Green Pass alla gente e fra un po' quel tipo di tampone non va bene e fra un po' il tampone non andrà bene. Cioè è la stessa cosa che mettere legale e obbligatorio ovviamente il vaccino. Quindi c'è qualcosa che non va. C'è assolutamente, inevitabilmente qualcosa che non va. Cioè non è contestabile sta cosa. C'è qualcosa che non va perché evidentemente non sono sicuri ancora di questa prima generazione, seconda generazione dei vaccini, evidentemente non sono sicuri della loro efficacia o della loro o del fatto che comunque non siano ancora oggettivamente non pericolosi, per quanto ovviamente non pericoloso è un vaccino, quindi un qualsiasi tipo di siero che inietti nel tuo corpo e può comunque inevitabilmente creare qualsiasi tipo di reazione per ragioni X che sono anche fuori dal controllo, insomma, della situazione. Quindi questa cosa mi fa ridere, perché adesso ricominciano i contagi, grazie a Dio per ora ancora tutto in maniera estremamente contenuta, perché secondo me comunque l'Italia, nelle sue strette fortissime, grosse contestazioni, alla fine comunque l'ha tenuto a bada il virus. Certo, poi se il virus non esiste non c'è un tavolo di discussione con sta gente, no? Però è vero pure che un giorno, se ci dovessero essere delle situazioni conclamate su quello che è stato, come è stato, quando si storicizzerà un po' tutta questa cosa, tutte queste persone che vanno in televisione dall'alto anche del proprio potere, quindi anche della propria importanza, del proprio seguito, a dire cose del genere, devono essere poi processati, no? Perché qui stiamo a parlare del fatto che tu istighi la gente a non curarsi, a non vaccinarsi, a non riconoscere un problema che oggettivamente sta creando problemi in tutto il mondo, e alla fine è un crimine contro l'umanità anche questo, eh. Un giorno magari, chissà, fra 20 anni, 30 anni ne riparleremo di sta storia, perché comunque vedremo poi come la storia appunto incastrerà i vari tasselli in questo contesto. Comunque alla fine purtroppo noi ne conosciamo anche di persone che non ne vogliono proprio sapere, cioè nel senso non ne vogliono sapere. Alcuni lo spiegano dicendo delle cose abominevoli, altre magari non lo spiegano neanche, altri non lo sanno, sono semplicemente confusi, insomma, all'interno di questa situazione. Ed è comunque un qualcosa che ci deve far arrabbiare, invece di essere al di là dei contesti più lavorativi, dove comunque ti arriva in ufficio il cliente Novax, non è che ti metti a dire ma sei un coglione, vatti a far vaccino, no, bel genere, perché chiaramente c'è un problema proprio anche di mantenimento e di sopravvivenza del proprio lavoro, no? Però in generale, quando si ha a che fare con le persone, bisogna insistere, ragazzi, bisogna insistere, perché la situazione continuerà e persevererà fino a che non ci saranno delle cure veramente definitive e efficaci, no? Poi se c'è uno che dice io voglio resistere a prendermi il vaccino perché comunque non mi convince, ma perché so che comunque arriverà una cura, è anche rispettabile tutto sommato, cioè nel senso ci può anche stare. Il problema è che tu non puoi andare in giro senza mascherina, fa quello che ti pare, perché noi siamo stati ad Avezzano questo weekend, bellissimo, siamo stati benissimo, abbiamo mangiato benissimo, ospitalità incredibile, comportamento eccezionale, siamo stati comodi, abbiamo dormito bene, veramente siamo stati trattati come dei re. Però sto cazzo di Green Pass, ragazzi, cioè sto cazzo di Green Pass dovete scannerizzarlo. Quando entra la gente in un posto pubblico, qualsiasi esso sia, c'è il Green Pass, lo dovete fare, è una cosa che lo dovete fare. È inutile che scrivete sul muro dovete avere il Green Pass, tenete la mascherina a un metro di distanza, sono tutte stronzate. Cioè dovete prendervi la vostra responsabilità, non è il vostro compito, lo so, sono d'accordo, io lo sapete che ho sempre sostenuto questa cosa, ma dato che oramai è così e purtroppo è così, vi dovete prendere la vostra responsabilità, dai ragazzi, su, questa cosa del Green Pass non si può sentire. Comunque poi vengo a chiudere proprio sul discorso di Avezzano, che è interessante. Questo è lo stream sperimentale di Runtime Radio. Ci trovi su www.runtimeradio.it. Found my Questi sono i Rude con Not Alone. È carina sta canzone, questa sonorità un po' graffiante, un po' rockettara, un po' Sgana Away, anche un po' Saffata Sakadana Away. Non so se conoscete quel genere di musica, Saffata Sakadana Away, no? Che non la conoscete, no, perché in realtà l'ho inventata io. Va bene, quindi non mi contestate da questo punto di vista. Allora, c'era una nota che aveva messo Francesco, interessante. Ho detto, io per ora voglio dire, mi astengo da qualsiasi tipo di commento perché voglio vedere poi il documento ufficiale. Francesco dice: il governo italiano si è rifiutato di sottoscrivere l'impegno per lo stop alle auto fossili al COP26. Che poi al COP26 sembra che vanno alla COP questi a fare. Sì, bene, ma questo è un problema che non è relativo al governo italiano, penso che sia proprio una questione generale. Sebbene anche un impegno nel portare l'elettrico entro il 2030 già sarebbe stato qualcosa, quantomeno. E giustamente invece sui vaccini Gianluca dice: perché loro hanno la verità vera. E sì, purtroppo. E poi mica eri in Toscana per quanto riguarda l'Avezzano. Beh, no, non ero in Toscana e devo dire la verità, da un punto di vista proprio dell'accoglienza si vede, insomma, cioè nel senso è un tipo di comportamento totalmente diverso. Non confondere prevenzione, vaccino e cure, sono due cose, hanno due obiettivi diversi, dice Francesco, sicuramente, ma io ho riportato quello che è ovviamente le obiezioni che sento ultimamente, dove dici: io aspetto di vaccinarmi, quindi non faccio prevenzione perché so che un giorno arriverà la cura e quindi non moriremo più di Covid. Questa è un po' l'idea un po' strana, che poi dopo, nel senso, sì, probabilmente prima o poi succederà anche questo. Anche la questione Green Pass è come il vaccino: obblighi i gestori a controllare o non lo faranno quasi mai. Ma infatti questo è il problema. Ma io ho detto, cioè, di principio io sono anche d'accordo il fatto che comunque ci siano dei limiti su quello che può e deve controllare una persona all'interno della propria attività commerciale. Però ritorniamo sempre al discorso, cioè nel senso, io posso anche non essere d'accordo, ma nel momento in cui comunque viene ratificata una regola, e quella regola deve essere, insomma, perché purtroppo il discorso sta zero da questo punto di vista. Cioè, ragazzi, ci sono le regole vanno fatte rispettare, ma se poi queste regole diventano un pro forma, cioè tu non devi fare sta cosa, questo non la devi fare, però tutto poi ti gira all'altra parte, è come se hai fatto la sceneggiata, fondamentalmente è come tornavo a quello che abbiamo detto all'inizio puntata: prende la scopa e butta tutto sotto al letto, insomma. Tanto arrestiamo assolutamente lì. C'era un'altra cosa che volevo dire in realtà, ma me la sono dimenticata perché ho detto, appunto, non ero veramente preparato, e vi spiego perché. Appunto, non l'avevo detto, insomma, l'ho già raccontato, ma lo voglio raccontare un po' meglio, magari che ho questi 10 minuti finali. Perché ad Avezzano, come abbiamo detto, hanno aperto questo museo dell'intrattenimento elettronico, che tra l'altro è molto esteso come concetto, quindi non è il museo del videogioco. Ed è probabilmente forse un esempio unico nel mondo, perché oltre a essere metri quadri zeppi di roba, praticamente, appunto, c'è il videogioco, ma c'è proprio l'intrattenimento elettronico, quindi praticamente ci sono anche le macchine elettromeccaniche, quelle a cinematica, quelle a retroproiezione. Ci sono delle cose interessanti, perché nel percorso ti rendi conto anche negli anni 60-70, quando ancora non erano arrivati i computer a portata di mano, quello che era un po' la concezione del computer di un tempo, e che vediamo tante volte anche nei vecchissimi telefilm, no? Guarda, ci sono delle macchine veramente incredibili, perché se voi contestualizzate vi rendete conto, sì, effettivamente la gente quello pensava fosse un computer, no? c'è soprattutto un gioco a quiz dove praticamente le domande sono messe su una diapositiva, quindi è tutto a retroproiezione e tramite soltanto un meccanismo elettromeccanico, ovviamente il sistema riconosce se tu hai messo la risposta giusta o la risposta sbagliata. Però per allora quella era la concezione di computer, cioè di una macchina con la quale tu interagivi e che aveva una sua sapienza, no? In realtà è solo un gioco di pellicole, insomma. Ed è comunque affascinante perché, ribadisco, ci sono forse gli unici due computer space aperti al pubblico, funzionanti al mondo, quindi è una cosa assolutamente da vedere. E noi abbiamo avuto l'opportunità di vederli accesi e, ragazzi, è veramente un tuffo indietro nel tempo, una cosa veramente incredibile, perché una cosa è vederli, sapete che avevano quelle scocche, quel design in vetroresina quasi metallizzato, veramente figo, che insomma per gli anni 70 era tanta roba, ma allo stesso tempo poi alla fine c'era questa cosa del fatto che erano funzionanti e capisci tante cose quando le vedi di persona, tantissime cose molto molto rare. E poi c'è anche comunque il videogioco, tantissimi coin up, veramente una raccolta vastissima. Io penso il tempo, la pazienza e anche l'impegno che ci hanno messo ovviamente per raccogliere queste cose, perché come giustamente Fabio Rubeo, che insomma è un po' il coordinatore, il deus ex di questo progetto, mi ha raccontato, dice: io posso pure andare in un posto e comprare la macchina X a 3.000 euro, però non è quello lo scopo, non è quella la finalità, e soprattutto partiresti già con un piede nel fallimento, perché chiaramente le risorse uno ce le può anche avere, però non è che puoi dedicare tutto in questa maniera qua, altrimenti diventerebbe un'emorragia, no? E quindi il grande lavoro sta nel trovare quella macchina, sapere cosa cerchi, sapere dove andare a cercare e cercarla e trovarla magari a zero o a pochissimo, perché ovviamente poi oggi c'è anche questo fattore dell'amplificazione del collezionismo che porta improvvisamente un flipper che magari non vale niente a esplodere a 1000, 2000, 5000, 6000 euro senza nessuna motivazione, perché in quel momento il trend magari vuole quel flipper lì o vuole i flipper, insomma, ad esempio, perché parlavamo anche dei flipper. Bene ragazzi, è facile da raggiungere Avezzano, basta scrivere su Google Elettroludica Museo dell'Intrattenimento Elettronico e vale veramente la pena. Se avete la possibilità e non siete tanto lontani, vale veramente la pena, perché è vastissimo, è libero, cioè comunque non c'è un percorso obbligato che devi fare, c'è un senso in quello che sta scritto, le infografiche e tutto quanto, però anche solo per andare a giocare comunque può essere interessante, ma soprattutto anche per chiacchierare con persone competenti che sanno quello che hanno costruito. E c'è anche ovviamente il meccanico, quello che io chiamo il meccanico, che è ovviamente il tecnico che si occupa del recuperare e restaurare e riparare cose che noi avremmo buttato via. Ci ho fatto un esempio, stava facendo vedere l'esempio di un flipper completamente bruciato, dove sia le meccaniche che le plastiche erano parzialmente, irreversibilmente danneggiate, e lui è riuscito a recuperarlo, e la gioia che prova nell'accendere e vedere che poi le cose funzionano, insomma. Quindi ecco, insomma, vale veramente la pena. Noi siamo andati là a girare tanta roba, abbiamo girato veramente tanta roba, e l'essere tornati a casa e aver scaricato tutto, sbobinato tutto, catalogato le riprese, messe tutte nel loro posto, insomma, e aver anche già iniziato un po' una parte di editing, diciamo così, mi ha veramente portato via involontariamente, poi boom, così non me ne sono proprio reso conto. Infatti poi vabbè, ci lavorerò nei weekend col tempo, insomma, un po' tanto abbiamo un po' di tempo per poterlo lavorare, però era tanto l'entusiasmo di quello che avevamo visto, delle idee che avevo in testa, del come mettere certe determinate cose e via dicendo, che ci ho subito lavorato, ho sincronizzato tutta quanta la roba, e questo mi ha completamente proprio isolato, cioè nel senso non ho letto notizie, non ho fatto niente, quindi mi sono trovato ieri sera che dice: ma cazzo, domani è giovedì, devo fare buongiorno un cazzo, e non sapevo veramente di che cosa parlare. Però insomma è stata una bella esperienza, siamo divertiti con Carlo Sant'Agostino, Walter Sbano e Marco Gualdi, che però hanno dovuto dormire insieme. So che Walter l'ha voluto nascondere questa cosa, io sono una puttana e lo dico. E no, però al di là di tutto dovete considerare che il pranzo non l'abbiamo pagato, l'ospitalità non l'abbiamo pagata, cioè nel senso siamo stati veramente ospiti al 100% e devo dire grandi ospiti, grande ospitata, grande accoglienza, belle persone, poi tante chiacchierate, poi anche tanta stanchezza, perché comunque stare in mano con la videocamera, fare le riprese quasi tutto a mano, anzi che comunque ci ho avuto il supporto di Walter che veramente è stato utilissimo e anche molto pronto nell'essere comunque anche di supporto, cioè comunque suggerire magari in che maniera risolvere un determinato di problema, al contrario di Marco Gualdi che come al solito non ha fatto un cazzo, infatti io a volte mi domando che cazzo sono portato a fare. Però poi alla fine è stato divertente, insomma. Poi tra l'altro in stanza avevamo degli alcolici che niente, hanno fatto una brutta fine. Un po' come Francesco ricorderà, insomma, l'Amaro Orso a Torino, più o meno la stessa cosa, insomma. Va bene, ragazzi, poi c'avevo da dire anche altre cose, ma non, adesso non me le ricordo. E tempo insomma di organizzarmi, cioè, poi alla fine ho preso degli appunti molto disorganizzati o disordinati come dice Michela, e per la prossima settimana insomma tornerò col mio foglio ben compilato e parleremo di argomenti seri, torneremo a fare una buongiorno un cazzo un po' più nervosa, diciamo così, ma non è quello non è neanche necessario, l'importante è trovare argomenti di cui parlare, di spiegarci il perché è un buongiorno un cazzo, ma soprattutto cercare anche di fare dei ragionamenti in positivo, cercando anche di interagire con voi, perché di temi ce ne sono tanti, di situazioni ce ne sono tante, di contesti ce ne sono tanti. Questo è un periodo veramente particolare nel quale non bisogna mai abbassare la guardia, ma cercare di essere sempre al top del proprio pensiero e cercare di sviluppare un pensiero critico, ma soprattutto intelligente. Quindi io continuo sempre a suggerirvi quello che vi ho suggerito l'altra settimana: leggete tanto, cercate insomma di essere sempre pronti alla discussione, che è quella la cosa veramente importante, ma soprattutto cercate di farlo con il ragionamento, usando l'elasticità del vostro cervello, e non pensare che un pensiero, perché è in contrapposizione con un pensiero istituzionale, allora deve essere migliore o per forza più vero rispetto a quello che è stato ovviamente il pensiero di cui appunto dicevamo prima. Ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo che questa sera c'è Quando eravamo futuro con me, Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Roberto Tomaiuolo. Questa sera ci siamo per davvero, abbiamo dovuto rimandare per 2 settimane per diverse ragioni, parleremo del subbuteo, ma in realtà poi parleremo anche di argomenti correlati al subbuteo, perché insomma non è soltanto il subbuteo in sé che è l'argomento primario. Domani mattina invece torna con l'ultima giornata della settimana Leo Vargion con il mattino all'ora in podcast, mentre che i disordinati informati del sabato, per questo sabato si sposta la domenica, la domenica non stasserà nessuno per ascoltarci, ma Michela ha un convegno e quindi è giusto che sia così. D'altronde non cerchiamo di fare questo tipo di discorso delle live con impegno e serietà, cercando di rispettare appunto i vari orari, però qualora è possibile, perché chiaramente non essendo la nostra professione, le altre cose, quelle che magari riteniamo più importanti in quel momento, debbano prendere il loro posto. Quindi con Disordinati Informati io e Michela torniamo domenica dalle 8:30 alle 9:30. Detto questo io vi ringrazio, ricordatevi sempre www.rantimeradio.it, cliccate sul pulsante anch'io e se volete sostenete la radio con una donazione una tantum, oppure tramite abbonamenti ricorrenti a Patreon, che aiutate questa radio a sopravvivere, soprattutto in questo periodo in cui veramente stiamo facendo tanto tanto tanto live. Live è femminile, però ciao.